Mix 24, i gialli della storia. Attenzione, attenzione! A causa di un incidente verificatosi alla centrale nucleare, il livello di radioattività è fuori dalla norma. Per la vostra incolumità e soprattutto per quella dei vostri figli, si rende necessario evacuare temporaneamente tutti i residenti nella zona di Kiev. L'evacuazione inizierà oggi stesso, 27 aprile alle ore 2. Saranno messi a disposizione degli autobus in tutti i quartieri della città. All'1:23 della notte tra il 25 e il 26 aprile dell'86, il reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl in Ucraina esplode con una potenza 10 volte superiore a quella della bomba di Hiroshima. È l'incidente nucleare peggiore della storia insieme a quella di Fukushima nel marzo del 2011. Quello che vi proponiamo oggi a Mix 24 è la ricostruzione basata sulle testimonianze dei protagonisti, su quanti cioè erano presenti quel giorno in quella centrale nucleare che ci porta nella sala di controllo del reattore numero 4 insieme agli uomini che vissero quella notte nell'aprile dell'86. Una ricostruzione per tentare di capire le cause di quel disastro e i molti punti oscuri su cui si discute ancora oggi. 00:23. La sala controllo del reattore numero 4 di Chernobyl. È qui che nei prossimi 60 minuti verranno prese tutte le decisioni chiave. Il futuro del reattore e del mondo è nelle mani di tre uomini. Leonid Toptunov, 26 anni, ingegnere capo della sala controllo. Il suo lavoro, monitorare l'enorme potenza del reattore. 17. Alexander Akimov, il capo turno, il comandante della nave. La notte del 26 aprile con Akimov c'è un suo superiore, Anatoly Dyatlov, vice capo ingegnere, uno degli ingegneri nucleari più esperti dell'Unione Sovietica. Faremo oggi il test. Un uomo duro che opera in un ambiente duro. Ma in questa tragedia c'è un altro protagonista, il reattore numero 4, il fiore all'occhiello della tecnologia nucleare del regime comunista. 00:29. La sala di controllo si prepara ad un test di sicurezza sul reattore. Ma i due ingegneri e Dyatlov non sono d'accordo sul livello di potenza da cui far partire il test. Sarà un litigio fatale. Un litigio fatale destinato ad avere conseguenze inimmaginabili, anche perché la centrale di Chernobyl nasconde due segreti. Il primo è un difetto di progettazione che gli stessi ingegneri ignorano. Un problema che rende il reattore pericolosamente instabile. Il secondo segreto, ancora più inquietante, riguarda invece lo stesso Anatoly Dyatlov. La vita del vice capo ingegnere di Chernobyl è già stata segnata anni prima da un altro incidente nucleare causato proprio da un suo errore. Il test è stato sollecitato dall'autorità sovietica per l'energia atomica, che vuole capire che cosa accadrebbe in caso di attacco nemico e conseguente mancanza di risorse energetiche. Ma il vice capo ingegnere Anatoly Dyatlov ignora deliberatamente tutti i protocolli stabiliti per questo tipo di test. Eppure gli ordini sono precisi: quando ha inizio il test la potenza del reattore deve essere sempre tra i 700 e i 1000 megawatt. Dyatlov invece vuole mantenere il reattore ad appena 200 MW, così da risparmiare l'acqua che serve a impedire il surriscaldamento del reattore. Dyatlov è sicuro, non c'è alcun rischio. Ascoltiamo Nikolai Stenberg, vice ministro dell'energia ucraina dal 2002 al 2006. Sfortunatamente quella notte in quella sala controllo non c'era nessuno che Dyatlov ritenesse come suo pari grado o suo superiore. Non c'era nessuno che avesse un carattere forte quanto il suo, né che avesse una qualifica pari o superiore alla sua. I reattori non commettono errori, sono le persone a farli. E ora muovetevi! Dyatlov non è uno stupido. È piuttosto il tipico prodotto di quel sistema comunista sovietico che lo ha allevato e cresciuto. È un uomo di apparato, fedele al partito. Segue le regole pur sapendo che nel mondo dell'industria nucleare regole e realtà non sempre coincidono. Per fare le cose talvolta servono scorciatoie e improvvisazione. Ma ridurre la potenza non significa farla scendere troppo rapidamente. A sorvegliare il circuito di raffreddamento l'ingegnere capo dell'unità di controllo, Boris Stoliarkuch, un uomo abituato a situazioni di emergenza come questa. Per ciò che riguarda i livelli dell'acqua e i corpi cilindrici, era sempre difficile controllarli a una bassa potenza. Ma tutti i tecnici lo sapevano. E perciò io non me ne preoccupai più di tanto. Il reattore di Chernobyl, lo abbiamo detto, a bassa potenza ed è molto instabile, infatti si blocca completamente. Gli ingegneri in sala di controllo non sanno che la centrale ha un difetto di progettazione, ma sanno però che in casi come questo la prudenza imporrebbe di interrompere il test e di spegnere il reattore. Il vice capo ingegnere Anatoly Dyatlov invece vuole andare avanti a ogni costo ed è a questo punto che prende la decisione fatale. Ordina ai suoi uomini di far ripartire il reattore anche se questo d'ora in poi renderà molto difficile il controllo della potenza. Siamo a 00:38. Ascoltiamo ancora Nikolai Steinberg. Dopo 00:30, per far risalire la potenza, bisognava tirare tutte le barre di controllo del reattore. Era come caricare un cannone. Le barre di controllo sono l'acceleratore e i freni del reattore nucleare. Sotto il coperchio del reattore, spesso circa 15 metri, ci sono 1661 barre di uranio che scendono verso il nocciolo del reattore stesso. La scissione degli atomi di uranio rilascia un calore enorme dalle barre di combustibile che trasforma l'acqua in vapore. Il vapore, a sua volta, muove la gigantesca turbina che genera elettricità. Per controllare l'energia sprigionata, 211 barre di boro sono disposte all'interno del nocciolo del reattore. Se vengono alzate, la potenza aumenta. Se vengono disattivate tutte insieme, gli ingegneri perdono completamente la possibilità di regolare il processo. Dagli potenza, idiota! Il test deve essere eseguito entro stanotte. Non ammetto errori! Idiota! Mi scusi, ma non dovremmo chiudere il reattore secondo le istruzioni? Io credo che sarebbe il caso di... Sono assolutamente d'accordo. Se disattiviamo le barre di controllo, avremo ancora meno controllo sul reattore. La situazione potrebbe diventare critica. Dovremmo fermarci, altrimenti non sappiamo che cosa potrebbe succedere. Ne ho abbastanza di cretini come voi. Dobbiamo eseguire questo test entro stanotte. L'ho ripetuto anche troppe volte per i miei gusti. Mi sono stancato. Quanto a te, se non te la senti di fare ciò che ti viene ordinato, non c'è problema. Tanto non credo che avrai più di questi problemi in futuro. Ci siamo capiti? Va bene. Dyatlov ha prevalso. Tregub e Akimov danno energia al reattore. 00:42. In meno di 5 minuti la potenza prende a risalire. Dyatlov ha quello che voleva. Il personale della sala di controllo ha degli ottimi motivi per eseguire le disposizioni superiori. Ascoltiamo il giornalista e scrittore Pierre-Paul Reed e poi una ricostruzione basata su testimoni oculari. Nessuno voleva perdere il lavoro. Avrebbe significato perdere anche l'appartamento a Pripyat e finire a vivere magari in un posto sperduto della Siberia. Non hanno provato a fermare Dyatlov nonostante sapessero che stavano correndo un grosso rischio perché avevano paura di perdere il lavoro. Ore 1:03. In sala controllo, dopo la fallita insubordinazione, tutto è di nuovo calmo. I tecnici sono riusciti a portare la potenza del reattore al livello richiesto dal vice capo ingegnere Dyatlov. Siamo di nuovo a 200 megawatt. Non è il caso di fermarsi. Niente affatto. Cominciamo il test. Secondo le regole, il test andrebbe effettuato a 700 megawatt. Se lei insiste, faremo a 200 megawatt. Certo, andremo incontro a una situazione che non sappiamo se potremo fronteggiare. Le chiederei quindi di scrivere sul registro che si tratta di un suo preciso ordine. Un suo preciso ordine. Ora ti spiego un concetto importante. Come vice capo ingegnere ho la facoltà di cambiare i parametri del test e stanotte ho intenzione di avvalermi di questa facoltà. Ho deciso che 200 megawatt sono più che sufficienti. Il test continua. Ore 1:09. La mancanza d'acqua continua a far scattare nuovi allarmi. Ma tra gli ingegneri ancora nessuno crede che un grave incidente sia davvero possibile. Per uno dei responsabili, Nikolai Fomin, è semplicemente inconcepibile. Fomin aveva fatto un corso di ingegneria nucleare per corrispondenza. Non era affatto un esperto in quel campo, aveva fatto carriera solo perché era stato segretario del partito. A differenza di Tiatlov, che era cosciente dei rischi che correva, Fomin credeva a quello che aveva letto sui testi. Quando perciò si pose la questione della sicurezza, Fomin disse: beh, la possibilità di un incidente è altrettanto remota quanto quella di essere colpiti da un meteorite. Perfino Alexander Akimov, che conosce molto bene la tecnologia ed è consapevole dei possibili rischi, l'eventualità di un incidente a Chernobyl è pari a 1 su 10 milioni. Ma Akimov e i suoi colleghi non conoscono il reattore così a fondo come credono. Numerosi documenti dimostrano che le autorità di Mosca hanno sempre ignorato gli allarmi sui difetti di progettazione e sulle carenze della centrale di Chernobyl. Un documento del 4 febbraio dell'86, quando alla tragedia di Chernobyl mancano solo 3 mesi, parla di conseguenze negative dovute alla diminuzione di potenza nei reattori della centrale. Ancora Pierre Paul Reed. Bukhanov, che dirigeva i lavori dell'intero complesso della stazione nucleare, era sfinito. Non vedeva l'ora di arrivare alla conclusione dei lavori. Ad esempio, il tetto del reattore avrebbe dovuto essere costruito con materiale antincendio, ma questo materiale non esisteva e per il tetto fu utilizzato materiale combustibile. Di incidenti ne sono accaduti spesso, ma sono stati rapidamente insabbiati. Lo stesso test in programma per il 26 aprile avrebbe dovuto essere effettuato molto prima dell'entrata in funzione del reattore numero 4. E ora a Chernobyl tutti i nodi stanno per venire al pettine. Nel cuore del reattore sta succedendo qualcosa di grave, ma nessuno in sala controllo sembra rendersene conto. Le poche barre di controllo di boro ancora nel reattore sono inserite solo parzialmente. La potenza aumenta perciò nel punto caldo, là dove i sensori non sempre riescono a rilevarla. A questo punto, il reattore è come una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere. Ore 1:11. Nonostante l'opposizione registrata in sala controllo, Dyatlov è ancora determinato a completare il test di sicurezza. Uno dei motivi può essere politico. La sezione locale del Partito Comunista rimprovera infatti a Dyatlov una eccessiva durezza verso gli operai. Il capo di Dyatlov, Nikolai Fomin, sta per essere promosso. Se il test andrà bene, Dyatlov potrebbe prendere il suo posto e salire nella scala gerarchica. Ore 1:17. Mancano 6 minuti all'inizio del test. Dyatlov è sicuro che andrà bene. Nel frattempo, però, nel nocciolo del reattore continua a crescere il punto caldo. Ore 1:22. Avviate le due pompe di riserva. Avviate le due pompe di riserva. Accese, pompe di riserva avviate. Molto bene. Alexander Fedorovich, cominciamo il test. Il test interromperà l'afflusso di energia alla turbina facendola rallentare e attivando i generatori diesel di riserva. Perché entrino in azione, tuttavia, passano 40 secondi. Il punto è, in quei 40 secondi, la turbina ormai rallentata riuscirà comunque a far funzionare le pompe dell'acqua? Senza acqua, il reattore potrebbe bollire a secco, proprio come un immenso bollitore vuoto. Sono gli ultimi secondi di vita nella centrale nucleare di Chernobyl. È 1:23 di sabato 26 aprile dell'86. La centrale di Chernobyl in Ucraina sta per esplodere. Ore 1:23. La potenza alla turbina viene interrotta. Nel giro di soli 60 secondi ha inizio una serie di drammatici eventi a catena. Poiché le turbine rallentano, le pompe spingono una minore quantità d'acqua nel nocciolo del reattore. Una quantità sempre maggiore di vapore viene generata da una quantità sempre minore di acqua. Con il passare dei secondi, la pressione del vapore all'interno del punto caldo continua ad aumentare. Aumentando la pressione, il vapore raggiunge le pompe. Peravachenko entra nell'enorme sala del reattore direttamente sopra il coperchio. Quello che si trova davanti è uno spettacolo inimmaginabile. La pressione del vapore all'interno del nocciolo sta sollevando le coperture da 350 kg delle barre di combustibile fuori dai loro involucri. La pressione! Attenzione! Dovete fare attenzione! Mi sentite? Sta succedendo qualcosa laggiù! Ehi! Dobbiamo sbloccare la 3-5! C'è stato uno sbalzo della potenza! Sto accendendo il sistema di emergenza per ridurre la potenza! Premendo il pulsante di emergenza a 3-5, le barre di controllo di boro si abbassano automaticamente, riducendo così la potenza. Ma l'operazione produce un effetto imprevisto e letale. Dal tetto del reattore! Si stanno sollevando i coperchi! Ore 1:23. La pressione del vapore nel punto caldo non può più essere contenuta. 50 barre di controllo e di combustibile sono fuori uso. Ore 1:23. L'energia aumenta vertiginosamente. Il reattore è come un vulcano pronto ad esplodere. È andata via la luce! Ma che cosa sta succedendo? Akimov, che succede? Chiamate Stanarchuk, non c'è la luce! Fate presto, presto! Forse sono i degassatori. Fate presto, qui scoppia tutto! Provo a cambiare le regolazioni. Guardate, guardate! Velocemente! Ma perché non c'è la luce? Un nemico invisibile, quello delle radiazioni contro cui è pressoché impossibile combattere. Dopo il disastro, in migliaia accorrono alla centrale per tentare di limitare i danni dell'esplosione, ma esponendosi così agli effetti delle radiazioni. Il rapporto ufficiale, redatto dall'Agenzia dell'ONU, dichiara 65 morti accertate e 4.000 decessi nel corso degli anni dovuti a tumori, dati ancora oggi molto contestati. Quello che mi ha lasciato sgomento è ciò che è successo alle mura della mia abitazione. Erano di cemento armato, spesse almeno un metro. Li ho visti nell'angolo di camera mia piegarsi come fossero di gomma. Si è fatto subito buio. Le luci si sono spente, siamo stati tutti avvolti da un immenso vapore. Polvere, vapore, buio. Ed un orribile rumore simile ad un sibilo. Sì, un sibilo. Ho pensato a un terremoto, a una guerra. L'ultima cosa a cui ho pensato è stato il reattore. Viktor Dektorenko. L'ho riconosciuto solo grazie alla voce. La faccia era completamente arsa dal fuoco, coperta di sangue. Victor era sotto shock. Mi disse che era vicino alle pompe con Gennady Rusenovsky, il secondo addetto alle pompe. Che Rusenovsky era rimasto lì e che dovevo aiutare gli altri. Gen, sei tu? Ho raggiunto Rusenovsky, tremava tutto, era terrorizzato. Mi indicò con le dita qualcosa e disse: io sto bene. Occupatevi di Kademchuk. È ancora nella sala pompe. E che cosa ho trovato? Macerie, distruzione. Se Kademchuk era lì, di certo era sepolto sotto tutte quelle macerie. Al posto del soffitto vedevo il cielo. Un cielo pieno di stelle. Pronto, Tatiana, mettiti in contatto con Pripyat, la centrale sta bruciando. Oddio, pronto, Pripyat, rispondete. Sì, sentiamo. Dove è avvenuto l'incendio? C'è un'esplosione in corso negli edifici principali, le unità 3 e 4 stanno bruciando. Le unità 3 e 4? Sì. Allora c'è stata un'esplosione. Chiedo istruzioni, Pripyat. Mettimi in contatto con Uriev. Ricevuto, Pripyat, lo stiamo cercando. Devo allertare tutte le squadre? Mettimi in contatto con Denischenko. Va bene, vi mando anche Ivankovo e gli altri? Sì, sì, chiama tutti, Tatiana. Intanto nella città di Pripyat, il 26 aprile, una tranquilla mattina di sole e le famiglie dei lavoratori sono all'oscuro di tutto. Ci spingemmo fino alla periferia della città. Da lì si vedeva bene. E mi accorsi che nella parte centrale dell'impianto mancava il tetto del reattore. Era rimasta in piedi solo la parete rivolta verso Pripyat. Le altre parti del tetto si erano disintegrate e c'era fumo dappertutto. Mezz'ora dopo Yuri tornò a casa con un'aria molto preoccupata. Mi fece spogliare la bambina e mi disse di metterla subito sotto la doccia. Mi disse anche di lavare i suoi vestiti e di restare chiusa in casa. Quando arrivammo alla centrale lo spettacolo era impressionante. Il separatore era venuto giù dal supporto. Si vedevano i tubi del vapore tutti rotti e aggrovigliati. Erano tubi da 150 mm di diametro. Mi resi conto che ciò significava che ora il nucleo del reattore era scoperto ed era a contatto con l'atmosfera. Le prime immagini del reattore distrutto risalgono alla mattina stessa dell'incidente e furono girate dal KGB. Anche se era chiara l'entità della catastrofe, passarono altre 24 ore prima che fosse presa la decisione di evacuare la zona di Pripyat. Ancora non sapevamo esattamente cosa fosse accaduto al reattore e cercammo di seguire le procedure di prassi. Ci avevano detto che la cosa più pericolosa era lasciare il reattore in attività senza refrigerazione. Così decidemmo di alimentarlo con l'acqua corrente. Ma alimentare il reattore ormai distrutto con l'acqua corrente ha come unico effetto quello di creare nell'atmosfera una colonna di vapore surriscaldato. E così le radiazioni mortali si propagano in lungo e in largo fino ad arrivare in Svezia, dove vengono intercettati dai sistemi di controllo della centrale nucleare di Forsmark. Dopo aver individuato enormi quantità di radiazione nell'aria, gli ingegneri della centrale atomica decidono di applicare le procedure di emergenza. La prima è far sgombrare il personale. Solo molte ore dopo gli scienziati svedesi scoprono che le radiazioni provengono da una fonte molto distante. Studiando le condizioni meteorologiche appare chiaro che il vento ha trasportato le particelle radioattive da una regione dell'Ucraina fino alla centrale nucleare svedese. Non è ancora mezzogiorno quando i funzionari dell'ambasciata svedese chiedono a Mosca spiegazioni. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Solo il 28 aprile, con un breve comunicato, la televisione sovietica darà la prima notizia ufficiale del disastro. E solo venerdì 2 maggio dell'86 il mondo intero saprà quanto è accaduto a Chernobyl. Con grave e colpevole ritardo, per lunghe e preziose ore, le autorità di Mosca tentano infatti di tenere nascosto il peggior disastro nucleare della storia fino ad allora. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.